6B. Ascolta e controlla. 1. Capisci tutto? No, io non capisco tutto. 2. Che cosa spedite? Spediamo un pacco. 3. Chi pulisce la camera oggi? Noi puliamo la camera. 4. A che ora finisci oggi? Finisco a mezzogiorno. 5. Che cosa preferite fare oggi? Preferiamo riposare. 6. Obbediscono sempre? Sì, obbediscono sempre.